Asmund e Singhi. C'era una volta una famiglia reale che viveva in un regno bello e felice. Il re e la regina avevano un figlio Asmund e una figlia Singhi e li amavano molto. Sia al principe che alla principessa venne insegnato tutto ciò che un buon principe e una principessa dovrebbero sapere e crebbero intelligenti, talentuosi e abili. C'era una cosa che entrambi amavano moltissimo: la natura. Ho finalmente convinto papà. Per cosa? Per le querce? Correzione, per la quercia, non le querce. Oh, dai! Sai che proprio come te, anche io aspetto per andare in uno di quegli alberi. Non puoi andare senza di me. Ai, certo, ho chiesto a padre entrambi gli alberi. E? Ha accettato. Sì, sì, finalmente costruiremo case in quei vecchi alberi cavi. Immagina di vivere dentro un albero, proprio nel mezzo della foresta. E comunque vicino al palazzo, vicino a mamma e papà. Asmund, siamo fortunati! Così il principe e la principessa presero le due vecchie querce cave nella foresta, proprio accanto al palazzo, e vi costruirono le loro case. Portarono i loro mobili migliori, le loro cose preferite, nelle case sugli alberi. Entrambi erano così felici nella foresta. Si svegliavano al cinguettio degli uccellini, mangiavano all'aperto all'ombra degli alberi, come se ogni giorno fossero ad un picnic. Un giorno i loro genitori inviarono loro un messaggio. Salve principe Asmund e mia signora principessa Singhi! Che cosa c'è, Jonathan? Il re e la regina vi inviano questo messaggio. Grazie. Questo è per te, sorella. Che cos'è? A quanto pare, il principe Ring del regno di Rebama è innamorato di te e desidera venire a chiedere la tua mano in matrimonio. Che cosa? Dammela! Ho sentito che è molto bello. E io ho sentito che ha una sorella meravigliosa. Allora, cosa ne pensi? Lo incontrerai? Non so. Quando verrà? Venerdì prossimo, tra 5 giorni. Mamma e papà vogliono che torniamo a palazzo. Abbiamo ancora 5 giorni, non dobbiamo tornare oggi. Torneremo mercoledì. 2 giorni dovrebbero bastarti per vestirti. Certo che no. Non mi vestirò in modo speciale. Voglio che mi veda così come sono. Anche altri 2 fratelli vivevano nella foresta. Una strega e un mago. Una mattina, mentre Asmund e Singhi stavano andando in barca nel lago, la strega e suo fratello li videro. Vedendo la bellezza della principessa Singhi, la strega fu consumata dalla gelosia. Come osa qualcuno così tanto più bello di me stare qui nella mia foresta? Ho sentito che la sua bellezza è così famosa che un principe di una terra lontana sta venendo per incontrarla. Non lo permetterò! Io non lo permetterò! Che cosa hai intenzione di fare, quindi? So cosa devo fare! Stai bene? Sì, sto bene. Ma cos'era? Non ho mai sentito di un uccello comportarsi così. Mai! Forse è stato inviato dal principe Ring per avere qualcosa di tuo. Che cosa? Dici mai cose sensate? Singhi e Asmund non avevano idea di quanto male le cose stessero per andare. La strega aveva preso la collana di Singhi per trasformarsi nella sua copia. Suo fratello, invece, lanciò un incantesimo malvagio sulle querce. Dormi, dormi ora e dormi bene. Dormi fino a che il giorno buio come la notte diviene. Ora dormiranno per sempre. Quindi il mago andò dalla famiglia reale in attesa di dare il benvenuto al principe Ring. Svanisci ora, svanisci per bene. Fino a che il giorno buio come la notte diviene. Ora se ne sono andati per sempre. Dopo qualche tempo, il principe Ring sbarcò e non appena vide la strega, ora trasformata nella principessa Singhi, il principe Ring rimase incantato dalla sua bellezza. Mia signora, deve essere la principessa Singhi. Sì, vostra altezza. Ed ero qui ad aspettarti per andare con te al tuo regno. Ma e i tuoi genitori? Mio padre è dovuto andare in battaglia, quindi desiderano che andiamo alla tua terra e poi loro verranno con i regali per il matrimonio. Possiamo aiutare in battaglia? No! Mio padre desidera che andiamo via. Va bene, vieni. Aspetta nella tua nave. Andrò a prendere una cosa a me molto cara che voglio portar via con me. Certo. Il principe trovò tutta la faccenda piuttosto strana, ma non pensò assolutamente che quella fosse una strega e non la principessa Singhi. Quindi fece come gli era stato detto. La strega andò nella foresta, sradicò le due querce dove il principe Asmund e la principessa Singhi dormivano, perché non voleva che rimanessero prove di ciò che era successo. La strega portò gli alberi con sé nella terra del principe Ring. La strega e il principe Ring salparono verso il regno del principe Ring, dove furono accolti calorosamente dai genitori del principe e da sua sorella. Fu costruita una dimora per la strega, in modo che potesse stare a suo agio fino a quando i genitori non sarebbero arrivati. La strega piantò le vecchie querce, nelle quali Asmund e Singhi stavano ancora dormendo, nel giardino. Nessuno poteva vedere gli alberi, poiché erano davvero piccoli. Il principe Ring andava spesso a trovare la strega e la portava ai banchetti reali con la sua famiglia. La strega era stanca di comportarsi come una principessa. Odiava sorridere tutto il giorno ed essere gentile con le persone. Giorno dopo giorno la strega si arrabbiava sempre di più di dover essere sempre bella e brava. Voleva mangiare montagne di cibo fino a scoppiare. Voleva ballare selvaggiamente e ruggire come una strega piuttosto che parlare educatamente. Oh, la strega era arrabbiata. Tornò al palazzo e prese a calci e urlò per la centesima volta la stessa vecchia cosa. Sono stanca di essere la signorina Belle Scarpe. Dov'è la vita selvaggia della foresta dove potevo calciare, correre e urlare tutto ciò che volevo? Odio sorridere tutto il giorno. Odio parlare in modo gentile ed educato e sto morendo di fame. Mangiano così poco, mangiano così poco. Mangerò mio fratello adesso se non mi porta da mangiare. Proprio ora! All'improvviso il pavimento cedette e suo fratello apparve con un tavolo pieno di cibo. Basta! Ancora un giorno da principessa e ucciderò il principe, io stessa! Sei impazzita? Il re di questo regno è davvero potente! Ci punirà entrambi! Quindi fa sì che la Singhi originale ritorni, così noi possiamo andare! Non posso! Ho lanciato su di loro un incantesimo e sarà valido fino a che il giorno non sarà buio come la notte, che è impossibile! Asmund e Singhi non torneranno mai più! Tu! Cosa farò adesso? Ma il fratello della strega aveva torto. Il mago sciocco non sapeva che a volte il giorno si trasforma in notte. Si chiama eclissi. Quando la luna copre il sole in modo che non ci sia luce sulla terra e il giorno si trasforma in notte anche se solo per qualche tempo. Questo è quello che successe il giorno seguente. Cosa? Una colazione? Io non ci vado! Io non ci vado! Oh, lascia che il principe venga oggi! Lo ucciderò! Ah! È qui? Arrivo! Arrivo! La strega si è appena trasformata in te! La mia collana! Quell'uccello! Quello deve essere il principe Ring! Dobbiamo dirglielo! Quella notte, mentre il principe Ring stava tornando a casa dopo aver accompagnato la strega, Asmund lo fermò. Chi sei? Perché blocchi la mia strada? Sono il principe Asmund, fratello della principessa Singhi. Quindi la guerra è finita? Dove sono i tuoi genitori? Non c'era nessuna guerra e la donna che soggiorna nella villa non è mia sorella. Non è la principessa Singhi, è una strega. Come faccio a credere a ciò che stai dicendo? Lei non è la principessa Singhi, io lo sono invece. Vieni con noi. Asmund e Singhi portarono il principe alla villa, alla finestra della stanza della strega che stava di nuovo dando calci e urlando. Si strappò la collana di Singhi e si trasformò nella sua forma reale. Sono stanca di essere la signorina Belle Scarpe! Dov'è la vita selvaggia della foresta dove potevo calciare, correre e urlare tutto ciò che volevo? Odio sorridere tutto il giorno! Odio parlare in modo gentile ed educato! E sto morendo di fame! Mangiano così poco! Mangiano così poco! Mangerò mio fratello se non mi porta da mangiare! All'improvviso il pavimento cedette e suo fratello apparve con un tavolo pieno di cibo. Basta! Ancora un giorno da principessa e ucciderò io il principe! Sei impazzita? Il re di questo regno è davvero potente! Ci punirà entrambi! Quindi riporta l'originale Singhi e lasciaci fuggire! Non posso! Ho lasciato su di loro un incantesimo e sarà valido fino a che il giorno non sarà buio come la notte, che è impossibile! Asmund e Singhi non torneranno mai più! Quindi, quando il principe verrà al mattino, lanceremo un incantesimo su di lui e sul palazzo e fuggiremo! No, non lo farai! Come hai fatto a tornare? Perché il giorno si è trasformato in notte! Veramente? Quando? Dovresti davvero ripassare un po' di cultura generale! Dovremmo inviare un messaggio a mamma e papà! Devono essere così preoccupati. Quindi un messaggio fu inviato alla madre e al padre di Asmund e Singhi. L'incantesimo si era infranto anche per loro nel momento in cui il giorno si era trasformato in notte. Visitarono tutti la terra del principe Ring. Il principe Ring si era innamorato immediatamente di Singhi e Asmund si era innamorato della sorella del principe Ring. Entrambi i matrimoni furono celebrati con sfarzo e splendore e vissero tutti felici e contenti. Per quanto riguarda la strega e il mago, furono rinchiusi nelle stesse querce dove rimasero anche quando il giorno si trasformava in notte.